Andre, Simo, Mad Boys. Sì. Cammino passo dopo passo e mi sento irrequieto. Il tempo cambia, gente cambia, non si può tornare indietro. Bolzaneto, mio quartiere, Bolzaneto, la mia storia. Che cazzo non si fa per ottenere un po' di gloria? I sorrisi finti vivi mentre il mio cervello è in crisi. Crisi nera questa sera, vago nei pensieri tristi. Sì, si sa, l'invidia è una brutta bestia. La voglia di vendetta ti fa perdere la testa. Questa vita il portafoglio lo riempie, sì. Ma se la sfidi e dopo esageri paghi le conseguenze. Non puoi andare avanti per sempre, no. La vita loca non ha mai portato a nessuno niente. Quando penso a questo penso a mia madre che soffre. Sono tante le strade sbagliate che la vita offre. Io vivo a mille all'ora perché ci provo gusto. Ma il mio modo di pensare non è sempre quello giusto. Pensieri che nella mia mente ci hanno lasciato i lividi. Pensieri che sulla mia pelle fan venire i brividi. Pensieri nella notte, nel sonno ti lamenti. Pensieri che ti assalgono anche quando ti addormenti. Pensieri differenti che spesso fanno male. Pensieri che ti lasciano salato come il mare. Pensieri che sconvolgono la vita. Pensieri che mi avvolgono in questa giornata sbiadita. Troppe volte ho preso schiaffi dalla vita, ora sto attento. Le botte che ho preso mi han reso il cuore di cemento. Sto attento a non fidarmi troppo delle persone. Sto attento a non finire come il boccia in prigione. Resto affacciato alla finestra del mio appartamento. Ho gli occhi e penso che riesco a parlare col vento. Quando ti han buttato dentro, colpa di quell'infame. Sentivo la tua mancanza, non sapevo più che fare. Dolore, la notte bagni di lacrime il letto. Voglio solo che tu sappia che sono qui che ti aspetto. Rifletto su tutto ciò che mi hai detto in passato. Pensando a tutto penso che non ti sei mai sbagliato. Sono nato con un animo ribelle, sì. Con la vena marchio a fuoco storie sulla vostra pelle. Il ragazzo che mi vede mi dice io sono te. Se tu apprezzi questi versi allora vivi come me. Pensieri che nella mia mente ci hanno lasciato i lividi. Pensieri che sulla mia pelle fan venire i brividi. Pensieri nella notte, nel sonno ti lamenti. Pensieri che ti assalgono anche quando ti addormenti. Pensieri differenti che spesso fanno male. Pensieri che ti lasciano salato come il mare. Pensieri che sconvolgono la vita. Pensieri che mi avvolgono in questa giornata sbiadita. Qui le tipe sono una razza bastarda. Ci prendi casa, fan promesse, vogliono solo la tua carta. Di credito sei in debito, pensi io non lo merito. Stai male, questo male non lo cura neanche un medico. Io dedico ogni mio verso a chi crede davvero. Quel che fa, in quel che sogna, a chi resta sempre vero. Il mio pensiero tutti i giorni almeno una volta va dai. Io lo so che tu mi senti anche se ora siamo lontani. Ti vorrei raccontare troppi miei pensieri strani. Ti vorrei almeno una volta sotto il palco e sulle mani. Un domani so che ci rincontreremo. Se nel frattempo vivo al massimo e se canto e penso tremo. Uno di noi in meno, questa vita è crudele. Io parlando ne produco testi come le api il miele. Se non ti piace io non posso farci niente amico mio. Non son come i vostri miti, io sono solo io. Pensieri che nella mia mente ci hanno lasciato i lividi. Pensieri che sulla mia pelle fan venire i brividi. Pensieri nella notte, nel sonno ti lamenti. Pensieri che ti assalgono anche quando ti addormenti. Pensieri differenti che spesso fanno male. Pensieri che ti lasciano salato come il mare. Pensieri che sconvolgono la vita. Pensieri che mi avvolgono in questa giornata sbiadita.